Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questo che si chiude è stato anche l'anno di Milano. Milano che è stata proiettata su livello internazionale grazie all'Expo. Molti italiani non soltanto l'hanno riscoperta. Chissà se abbiano riscoperto anche un'anima più nascosta di Milano, quella musicale, che ci ripropone un libro di Andrea Pedrinelli, che è giornalista e storico della canzone, che si intitola La canzone a Milano dalle origini ai giorni nostri, pubblicato da Oepli, 630 pagine, 29,90 euro. Il libro si apre con la testimonianza di un protagonista, di un monumento potremmo dire, della Milano musicale, Franco Cerri, che di Milano dice: Milano è stata la mia fortuna, Milano ha permesso di conoscere gli artisti italiani e stranieri, mi ha tenuto in piedi appagando sia le necessità economiche che soprattutto i miei fabbisogni mentali. E questa storia parte da lontano, dalle Businate, una parola che viene da Bosin, cioè brianzoli, i quali venivano a Milano come cantori di strada nella seconda metà dell'Ottocento. Dopo ci sono gli antesignani, incontriamo i monumenti, appunto Giovanni Danza, Milli, Lavanoni, Milva, Fiorenzo Carpi, e poi si parla della fase del cabaret dei cantautori, Gufi, Cocchi Renato, Bruno Lauzi, la Milano ribelle con Celentano, Gaslini, Franco Trincale, Gaber, e infine la Milano capitale, che parla dei grandi eventi che si sono svolti e si svolgono a Milano, per concludere con la città metropolitana, che affronta gli ultimi sviluppi della musica a Milano nella fase della globalizzazione. Ma su questi personaggi sentiamo adesso l'autore. Buonasera ad Andrea Pedrinelli. Buonasera. Andrea Pedrinelli, è difficile scegliere fra i tanti cantanti, autori, artisti che lei cita nel suo libro, ma insomma cerchiamo di fare una selezione abbastanza coraggiosa. Cominciamo con due donne che segnano anche l'importanza che ha avuto il piccolo nella Milano del dopoguerra nel definire il panorama musicale di Milano. Sentiamo questo brano. Questa era Ornella Vanoni, l'altro personaggio è Milva. Cosa ci dice di queste due grandi della canzone milanese? E come ha detto giustamente lei, segnano l'ingresso del piccolo teatro nella cultura della canzone, o meglio, dimostrano l'unicità di Milano anche da questo punto di vista, perché Milano è la città nella quale la canzone nasce, non soltanto dentro l'industria, ma anche dentro altri luoghi, come ad esempio appunto il piccolo teatro. Mamì e Ornella Vanoni vengono lanciate proprio dal piccolo, con Fiorenzo Carpi a musicare questa canzone magnifica, e la Vanoni diventa un emblema della canzone della mala, come si chiamava all'epoca. Poi in realtà è Milva quella che però interpreta di più la cultura della canzone nel mondo, partendo da Milano, e diventa la nostra Piaf, la nostra Dietrich, non saprei come definirla, ma insomma i paragoni sono quelli, ecco. Poi c'è un personaggio che, come lei ha scritto, avrebbe cambiato la storia della canzone d'autore nostrana, in particolare grazie alla collaborazione con Umberto Simonetta e a questa canzone. Il suo nome era Ceruttigino, ma lo chiamavan Drago. Ecco, ovviamente abbiamo riconosciuto Gaber. Gaber, diciamo che travalica i confini di Milano con la sua grandezza, con il teatro canzone che crea negli anni 70 con Sandro Luporini, sempre grazie al piccolo e in particolar modo a Paolo Grassi nello specifico. Però la prima parte della carriera di Gaber è molto milanese anche nei contenuti, e lì il merito è la copiata con Simonetta, perché Gaber è stato un grandissimo artista, coraggioso, aveva grandi capacità anche di attore, di interprete, una bella voce, grande garbo, cultura, però non bisogna dimenticare che si è affiancato degli autori straordinari, Luporini per un verso e Simonetta, che era un signor romanziere, che ha scritto delle pagine su Milano che poi Gaber ha saputo interpretare con una grandezza straordinaria. Ecco, si può parlare di una competizione tra Gaber e il personaggio di cui parliamo adesso, che lei definisce il più grande e poi successivamente definisce nel suo libro come un autentico fenomeno culturale? E il portavi scarde il tennis, e il gaveva due stebun, l'era il prima meraviglia, perché l'era un barbù. Enzo Iannacci. Ma la competizione direi che non si può parlare, sia perché i due erano veramente amici fraterni, sia perché io nella mia piccola carriera mi sono occupato così tanto di Gabber, portandolo anche nelle scuole, che non oserei mai sminuirlo nei confronti di Iannacci. Ritengo Iannacci il più grande nella storia della canzone italiana, milanese, pardon, perché lui l'ha attraversata tutta, in tutte le sue sfumature, cioè il rapporto della musica d'autore con la musica popolare, poi il cabaret, il jazz, il teatro alto, e, insomma, in questo senso credo veramente che Enzo abbia rappresentato più di Gabber e più di chiunque altro Milano nella sua cultura musicale a tutto tondo in assoluto. Senta, noi qui al Sole 24 Ore siamo affezionati, per così dire, al Derby Club, perché sorgeva in un palazzotto che è davanti alla sede attuale del gruppo 24 Ore. E sentiamo un protagonista di quel periodo. Questo era Enrico Intra. Che cosa ci dice di quel periodo e dell'importanza che ha avuto il Derby Club? Il Derby Club è stato fondamentale proprio nella gestione di Intra, soprattutto perché è diventato una fucina di talenti a metà strada tra la musica e il teatro. Intra voleva portare il jazz a Milano, e per portare il jazz a Milano ha avuto l'idea di creare dei siparietti che allentassero l'impatto un po' difficile di quel tipo di musica sui milanesi, e lì è nato il cabaret. E poi nel Derby si sono sviluppati dei linguaggi straordinari grazie a questa intuizione iniziale di Enrico Intra, che però vorrei sottolineare è stato importante, come Cerri, come altri, anche perché dietro la grande musica anche dell'industria degli anni 60 a Milano c'erano questi grandissimi jazzisti, senza i quali personaggi, per citarne uno su tutti, Fred Buongusto, per dire, che non è milanese però ha avuto un successo mondiale, questi personaggi non avrebbero avuto delle scritture, degli arrangiamenti di un certo tipo se i grandi jazzisti milanesi non si fossero inseriti nell'industria. Poi col Derby Intra ha aggiunto una marcia al suo contributo alla storia della canzone. Il jazz e il cabaret, di cui furono protagonisti anche i Goofy, che lei definisce una delle vette della canzone a Milano. Sentiamo un brano dei Goofy. Porta romana, bella porta romana, ci stanno le ragazzine che te la danno. Ecco, che cosa ci dice dei Goofy? Ma io spero che qualche discografico ci ascolti, nel senso che i Goofy secondo me sono paragonabili nella storia della canzone italiana un po' a quello che sono stati i Beatles nella canzone mondiale. Mi spiego, in pochi anni i Beatles hanno rivoluzionato tutto. I Goofy in 5 anni con 12 LP hanno dimostrato come si poteva fare satira, politica, approfondimento, ricerca popolare, sempre con eleganza, con profondità, con grande cultura. I dischi dei Goofy sono qualcosa di unico, e queste quattro eccellenze, come me le ha definite anche Lino Patruno, giustamente, perché tutti e quattro hanno delle grandi teste con delle capacità diverse ma straordinarie, vanno ricordate e testimoniate anche ai giovani cantanti di oggi, che spesso si ispirano a loro senza saperlo. Non posso trascurare di ricordare un grande amico che peraltro lei definisce tra i più grandi di sempre. Io canterò politico, ma il giorno è ancora lontano. Per ora sono l'unico ad andare contro mano. Di Lauzi lei scrive: chissà se l'hanno dimenticato perché era liberale anziché del Partito Comunista. Sì, in realtà è un'annotazione un po' tipo le domande retoriche, perché credo che sia stato proprio quello il suo grande problema, purtroppo. Infatti mi fa piacere che abbia scelto Io canterò politico, perché è una canzone straordinaria in cui lui vedeva i limiti, non di tutti per carità, ma di certi artisti pseudo impegnati, e però gli è costata carissimo. Lauzi è stato un gigante da tutti i punti di vista, anche come interprete di brani di Battisti che ha lanciato lui, come traduttore di brani brasiliani, francesi, eccetera, ed è stato dimenticato un po' troppo presto. Lui non era milanese, però è stata la grande dimostrazione di come Milano ha permesso con il suo humus culturale, artistico, lo sviluppo, la crescita di artisti che poi sono diventati milanesi d'adozione. Lauzi è stato un esempio, tra l'altro i suoi one man show erano indimenticabili, e la lotta che ha fatto quando si è ammalato per testimoniare per il Parkinson eccetera è stata fondamentale. Veniamo a un artista in piena funzione che magari è meglio che non vada in Sicilia. Io che vinco per mestiere calare le braghe davanti a un ragioniere, qui se se ne accorge di il professor Roberto Vecchioni. Sì, no, beh, Vecchioni giustamente è uno dei punti di riferimento della nostra canzone d'autore. Diciamo che essendo l'intento del libro quello di analizzare quello che ha più stretti legami con Milano, Vecchioni come Gabber a un certo punto diventano protagonisti di un'arte che è più universale che non milanese. Ciò non toglie che Vecchioni, essendo milanese al 100%, sia uno delle vette anche del cantautorato milanese. All'inizio parla molto di Milano e Lucio San Siro, non è che la detta di questo, poi si sposta su una scrittura più legata ai riferimenti letterari, poetici, colti, e quindi si allontana dal riferimento a Milano, come faranno anche altri in altro modo, però diciamo che il suo canzoniere anche per questo risulta magari un po' meno milanese, però unico nel panorama italiano. Infine, nella sua descrizione di Milano c'è la Milano ribelle. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck. Perché mette proprio Celentano come simbolo della Milano ribelle? Perché la prima ribellione della musica nella storia, almeno in Italia, è stato il rock, e Celentano forse non è stato il più grande rocker italiano da un punto di vista, anche il primo senz'altro non è stato, però in generale magari non è stato il più grande rocker italiano, poi si è arrivato Vasco e così via, però è stato il primo che ha portato il rock all'attenzione di tutti, e il rock è stata la prima delle grandi ribellioni che poi Milano ha vissuto tutte, dal beat alla canzone impegnata, alla ricerca estrema degli area. Il teatro canzone di Gabber è una ribellione, e personaggi come Cacciapaglia, che io cito, o Gaslini, sfiorano solo la canzone, ma dimostrano come attorno alla canzone nascessero, soprattutto a Milano, città della musica più di altre, degli embrioni di rivoluzioni vere e proprie all'interno della musica nostrana e non solo. Grazie ad Andrea Pedrinelli per questo viaggio nella Milano musicale, buona serata e naturalmente buon anno. Grazie a voi e buon anno a tutti. E su Fiorenzo Carpi, che Pedrinelli definisce il compositore della Milano colta, Schira ha pubblicato di Stella Casiraghi e Giulio Luciani, con la collaborazione di Martina Carpi, il libro Mamì, musica, teatro, cinema, televisione, 168 pagine, 24 euro, nel quale si rievocano appunto quegli anni felici e fecondi nei quali musica, teatro e la prima televisione rinnovavano il panorama culturale di Milano e di tutta l'Italia. Ci interrompiamo per un attimo, ci sentiamo fra pochi istanti. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Un'altra testimonianza di quella Milano ironica, leggera e spumeggiante degli anni 50 e 60 che ci è stata presentata nel libro di cui abbiamo appena parlato sulla musica, è un libro, anzi il numero di una rivista dedicato a uno dei protagonisti di quella Milano, e cioè Marcello Marchesi, al quale è dedicato un numero di Panta, la rivista pubblicata da Bompiani, che pubblica l'agenda Marchesi, curata da Maria Rosa Bastianelli e Michele Sancisi. 534 pagine con molto ascolto illustrazioni 30 euro. L'agenda, per l'appunto, era lo strumento di lavoro indispensabile di Marchesi, che annotava continuamente spunti e parole con le quali aveva, scrive Michele Sancisi, una sorta di corpo a corpo quotidiano. Marchesi fu scrittore, pubblicitario, umorista, sceneggiatore, uno dei padri di quella che chiamiamo oggi comunicazione. Ebbe un'attività frenetica e poliedrica che qui tanti autori, alcuni suoi colleghi e amici, ricordano e ripresentano. Marchesi, tra l'altro, fu uno dei padri e degli autori della televisione dei tempi d'oro, di cui parla nel libro Gianfranco Bettettini, una televisione scritta di cui Marcello Marchesi fu uno dei maestri, come ricorda il regista Michele Guardì, che scrive: Marchesi ci ha insegnato che ogni battuta deve avere un peso specifico complessivo, ma ogni parola, ogni singolo passaggio deve avere una valenza che non disturbi né la precedente né quella successiva. Oggi quella TV dei grandi maestri, aggiunge, purtroppo si è persa, perché è arrivata l'ondata dei reality che hanno spostato sui protagonisti dello spettacolo l'importanza dell'autore. E lo ricordano qui anche un gruppo di cui abbiamo appena parlato, cioè i Gufi, e uno dei tre Gufi, Roberto Brivio, lo definisce un irraggiungibile. Vi segnalo poi altri due libri milanesi: uno è Uno strumento per entrare nella città nella sua storia, Conosci Milano? Tutto quello che devi assolutamente sapere, 450 domande, 450 risposte, le notizie più strane, curiose, divertenti e preziose su Milano, in un gioco storico letterario alla Raymond Queneau, l'ha curato Luca Scarlini, è pubblicato alle edizioni Clichy, 238 pagine, 15 euro. In effetti in queste 450 domande e risposte c'è di tutto, soprattutto della storia antica, della Milano artistica, della Milano letteraria, sociale e linguistica, e c'è anche qualche incursione nella musica recente. Per esempio l'autore si domanda e ci domanda: Milano si buona, buona almeno tu, in quale canzone compare questo verso? E la risposta è Milano e Vincenzo di Alberto Fortis, uscito nel 1978, forse il suo brano di maggior successo. Poi c'è un noir, visto che Milano è anche una città di noir e di gialli, e questo è di Dario Crapanzano. Si intitola Arrigoni, il caso di Piazzale Loreto, pubblicato da Mondadori, 176 pagine, 15 euro, una riedizione rivista e corretta della quarta puntata del ciclo di cui è protagonista appunto il commissario creato da Crapanzano, e cioè il commissario Arrigoni. Qua siamo in una Milano di dicembre freddissima, nel 1952, nella quale il commissario deve fare i conti con l'omicidio per avvelenamento di una barista ritrovata in un topolino. E il libro di Crapanzano è anche un'occasione per ricostruire con tocchi affettuosi la Milano di quegli anni, la Milano degli anni 50, di cui abbiamo avuto gli echi anche musicali. Per esempio troviamo la descrizione dei bar, anzi dei caffè, che vengono definiti in questo modo dall'autore: il bar era una vera e propria istituzione cittadina, un insostituibile punto d'incontro, un ritrovo dove si stringevano amicizie che avrebbero retto al passare degli anni, al pari di quelle nate sui banchi di scuola o nei cortili degli oratori. E a questo punto il confettino. Ritroviamo Milano nel libro di Chiara Patarino e Aurora Marsotto, con le illustrazioni di Desiderio Guicciardini, Tino il cioccolatino e il giallo del risotto, PM, 56 pagine, 10 euro, che è un libro per riscoprire la nostra città e anche qualche leccornia, come il riso soffiato al cioccolato, che potremo imparare e insegnare a preparare. Questo è anche periodo di mostre, allora ve ne segnalo due. La prima si svolge a Torino, alla Galleria d'Arte Moderna, ed è in corso fino al 31 gennaio, dedicata a Monet, curata da Xavier Rey e con il catalogo di Schirà. E in questa mostra troverete alcuni capolavori di uno dei padri dell'impressionismo, alcuni dei quali esposti per la prima volta in Italia. E allora vi segnalo in questa occasione un libro agile di Fabrizio D'Amico, che si intitola Sguardi su Monet, pubblicato da Schirà, 104 pagine, 12,50 euro, che è un'introduzione, dicevo agile ma approfondita, all'opera del grande pittore, interessante anche per le pagine su alcune grandi mostre dedicate a Monet in tutto il mondo e all'influenza dell'artista su alcuni pittori italiani del dopoguerra, per esempio Schifano, Maffaio, Tancredi. Una fortuna che diventò una sorta di revival di Monet, che dopo la morte era stata vittima, al contrario, di una specie di sfortuna critica. Fu infatti soprattutto negli anni 90 del Novecento che questa riscoperta raggiunse l'apice, forse perché, come spiega l'autore, più viva si era fatta in quel periodo l'urgenza rispetto al decennio precedente, governato dall'egida della analisi autoriflessive del concetto, di una più intera reimmersione nella libertà della pittura. Fu quello un tempo in cui contemporaneamente era venuto sviluppandosi il dogma dell'astratto in modo meno ingessato e meno scolastico. L'altra mostra importante è quella su Gauguin, che si svolge a Milano, al Nuovo Museo delle Culture. Questa sarà aperta fino al 21 febbraio e si intitola Gauguin e racconti del paradiso. Troverete qua 70 opere, molte delle quali provenienti dalla Carlsberg Glyptotek di Copenaghen, che è uno dei più ricchi corpus di opere di Gauguin, ed è curata da Lina Clausen Pedersen e Flemini Fribourg, che appunto lavorano, anzi la seconda è la direttrice del Museo di Copenaghen. Il catalogo è di 24 Ore Cultura, che è una società che appartiene al gruppo al quale appartiene anche questa radio. Ma sentiamo da Marco Carminati una presentazione della mostra. Ciao Salvatore, sì, la mostra Gauguin al MUDE, che è una mostra molto interessante. Io vorrei illustrarvi un capolavoro solo che è presente. Come saprete, la mostra è singolare perché gran parte delle opere vengono dalla Danimarca. Come mai ci sono tante opere di Gauguin in Danimarca? È una cosa molto semplice da spiegare. Gauguin aveva sposato una donna danese, sua moglie era danese, poi si erano separati e quando è morto gran parte dei dipinti sono rimasti di proprietà della moglie, e in questo piccolo paese si è diffuso naturalmente un collezionismo notevole di opere di Gauguin. Gauguin era una persona molto irrequieta, chiaramente. Aveva cominciato a lavorare non come artista, ma faceva l'agente di borsa e lavorava in banca. A un certo punto decide di diventare artista, frequenta gli impressionisti, ma il linguaggio degli impressionisti non lo convince, non gli piace lo stile e soprattutto non gli spiace la superficialità dei contenuti. Gauguin vuole andare a cercare lontano una nuova sorgente di ispirazione e quindi cerca di andare, tra l'altro facendosi pagare il viaggio dal governo francese, nelle lontanissime colonie francesi. Quindi va a Tahiti, un viaggio che fu molto importante, compiuto da lui tra il 1891 e il 1893. Qui cerca il paradiso, in realtà trova il paradiso ma trova anche un sacco di malattie. Infatti si ammalerà gravemente durante questo primo soggiorno a Tahiti, guarderà con grande intensità i colori, le atmosfere, soprattutto gli abitanti, che gli parlano appunto abitanti di un Eden straordinario, però è costretto a rientrare in Francia perché si è ammalato. E proprio durante il rientro in Francia realizza uno dei dipinti che si trova qui alla mostra del MUDE, che è naturalmente un dipinto tipicamente tahitiano. Ci sono due donne sulla spiaggia, ci sono della vegetazione, ma se osserviamo bene il quadro c'è anche qualcosa di abbastanza sinistro. Infatti in secondo piano sulla sinistra si vede una divinità polinesiana. Hina era questa divinità, una divinità ambigua del bene e del male, capace di proteggere ma anche di uccidere. Quindi evidentemente l'artista riesce a far capire che questo paradiso lontano non è tanto un paradiso, ma è anche un luogo dove ci sono forze del male, quindi le malattie per un occidentale, che si annidano in questa sorta di Eden selvaggio che poteva apparire appunto a un europeo le isole di Tahiti in quel periodo. Il quadro venne realizzato non a Tahiti ma in Bretagna, quando appunto per ripararsi da questo difficile soggiorno nelle isole del Pacifico torna a Pont Aven, dove lui era già stato tra l'altro alla ricerca di un altro paradiso, che era quello della campagna francese. Lui da parigino esce dalla città e cerca la freschezza, la naturalezza nelle contadine bretoni, nei paesaggi bretoni. Qui viene ospitato da Madame Chloé, che tra l'altro è la destinataria del dipinto. Noi abbiamo un'iscrizione di Gauguin al piede del dipinto, che racconta appunto il fatto che la destinataria non era altro che questa signora, e questa signora era la proprietaria della pensioncina dove il nostro Gauguin stava alloggiando in quel periodo. Quindi non c'è nulla di esotico, il dipinto ricorda il mondo esotico, ma è stato fatto in Europa in questo momento, cioè nel 1894, quando lui è rientrato nella sua Francia. E questo quadro è particolarmente interessante soprattutto per lo stile con cui è realizzato, con i colori a campitura netta, quindi come se fossero delle vetrate, dei vetri messi uno insieme con colori molto contrastanti l'uno con l'altro. È proprio la ricerca di un linguaggio nuovo che questo artista sta compiendo, come lo sta facendo, anzi lo aveva fatto anche Van Gogh, però in questo periodo era già morto, e lo avevano fatto altri artisti come Toulouse-Lautrec, quelli che cercano di affrancarsi da questo linguaggio facile e piacevolissimo che è il linguaggio dell'impressionismo. E in questa occasione vi segnalo di Lawrence ed Elizabeth Hanson, che è una nota coppia di biografi inglesi, il libro intitolato appunto Paul Gauguin, pubblicato da Odoia, 998 pagine, 20 euro, tradotto da Lidia Belani. Questa è la riproposizione di un'opera degli anni 50 che mancava in Italia dal 1958, che merita di essere ripresa per avvicinarsi a questo gigante della pittura. Fulcro della mostra di Milano, come ci ha spiegato Marco Carminati, è l'opera di Gauguin ispirata al suo soggiorno a Tahiti. E nell'isola Gauguin era arrivato nel 1891 e qui, ci ricorda il libro, aveva maturato la speranza di poter guadagnare del denaro sul quale non contava, come scrisse egli stesso. E in quest'isola Gauguin, ci ricorda sempre il libro degli Hanson, si sarebbe sentito cambiare. Infatti scrisse: a poco la civiltà mi abbandona, comincio a pensare con semplicità e a perdere l'avversione per i miei vicini, o meglio ad amarli. Vivo una vita libera, godendo dei piaceri umani e animali, sfuggo all'artificio, mi identifico con la natura, sapendo che domani sarà simile a oggi, altrettanto libero e bello. La pace si sta impossessando di me. E gli Hanson avevano pubblicato un'altra biografia, questa dedicata appunto a Van Gogh, di cui pure abbiamo parlato, sempre pubblicata da Odoia, 308 pagine, 20 euro, tradotto da Lidia Belani. Un riferimento a Gauguin ne troviamo nell'ultimo libro di Philippe Daverio, Il gioco della pittura, storie, intrecci, invenzioni, pubblicato da Rizzoli, 448 pagine, 35 euro, ricco di molte illustrazioni, e che è un libro che costituisce una sorta di lussuoso dizionario o enciclopedia della pittura occidentale. E naturalmente non poteva mancare Gauguin, qui presentato anche con alcune opere dipinte appunto a Tahiti, e di cui viene sottolineato il legame difficile ma significativo con Van Gogh, che ruppero con la tradizione rappresentata da Monet, dal quale abbiamo cominciato a parlare d'arte questa sera. Dei due infatti scrive Daverio che furono due figure creative esterne alla soffice realtà degli impressionisti, ed è pure ciò che li porta ad andare al di là della voglia rappresentativa ad una realtà fotografica per giungere a una pittura quasi psicologica dell'interiorità e del vissuto. Appartengono alla medesima piccola borghesia irrequieta che si emancipa, pronta a rompere gli schemi, e dalla quale provengono i poeti Verlaine e Rimbaud, anche quest'ultimo finito a concludere la propria vita in terre esotiche, conclude Daverio. E a proposito di Verlaine, vi segnalo una biografia di Stefan Zweig che è pubblicata da Castelvecchi, 92 pagine, 12,50 euro, tradotto da Massimo De Pascali. E con questo ringrazio Luca Cremonese redazione e Carmelo Lauricelli regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata, una buona fine del 2015 e vi do appuntamento a domenica prossima e all'anno nuovo.